Ad alta voce, Elisabetta Piccolomini legge Jane Eyre di Charlotte Bronte, traduzione di Monica Pareschi. Passarono ottobre, novembre e dicembre. Un pomeriggio di gennaio la signora Fairfax mi aveva chiesto di lasciare libera Adele, che era raffreddata. E poiché Adele appoggiò la richiesta con un ardore che mi ricordò come fossero preziose quando ero bambina io le vacanze inaspettate, dissi di sì, convinta di far bene a mostrarmi flessibile in quell'occasione. Era una bella giornata, freddissima ma senza vento, e dopo aver passato una lunga mattinata chiusa in biblioteca, ero stanca. La signora Fairfax aveva appena scritto una lettera che doveva essere imbucata, perciò indossai cappello e mantella e mi offrii di portarla a Hay. Le 2 miglia che ci separavano dal villaggio avrebbero costituito una piacevole passeggiata invernale. Visto che Adele era comodamente seduta nella sua poltroncina accanto al fuoco nel salotto della signora Fairfax, le diedi la sua più bella bambola di cera e anche un libro di fiabe. E dopo aver risposto con un bacio al suo «Revenez bientôt, ma bonne amie, ma chère mademoiselle Jeanette», mi misi in cammino. Il terreno era indurito, l'aria immobile, la strada deserta. Da principio camminai di buon passo per riscaldarmi, poi rallentai per godermi e analizzare i diversi piaceri che l'ora e la situazione avevano in serbo per me. Erano 3 del pomeriggio. L'incanto del momento era tutto nell'approssimarsi dell'oscurità, nella luce pallida del sole calante. Rimasi lì finché il sole calò tra gli alberi, sprofondando rosso e nitido dietro i rami. Dopodiché mi volsi a oriente. In cima alla collina, sopra di me, pallida come una nuvola, sorgeva allora la luna. Sempre più vivida di momento in momento, brillava sopra il villaggio di Hay, che seminascosto tra gli alberi, col fumo azzurro che si alzava dai pochi comignoli, distava ancora 1 miglio. E tuttavia, in quel profondo silenzio, sentivo chiaramente il brusio di vita che di là si levava. Il mio orecchio avvertì anche il rumore di un corso d'acqua. Da quali valle o profondità venisse non avrei saputo dire, ma c'erano parecchie colline oltre Hay e senza dubbio molti torrenti scendevano da quei pendii. La pace serale tradiva ugualmente il chioccolio delle acque più vicine e il mormorio delle più remote. Inaspettatamente su quella lieve armonia di gorgogli e sussurri, lontano ma allo stesso tempo chiarissimo, si levò un rumore, o meglio un calpestio metallico, un croppete, croppete, che spazzò via quel vago risuonare di acque, come quando in un quadro la massa solida di una rupe o il tronco rude e biforcuto di un'enorme quercia, posti in primo piano e dipinti a tinte forti e con tratti sicuri, spazzano via le aeree distanze di colli turchini, orizzonti assolati e nubi sfumate in cui ogni colore si fonde con l'altro. Il fracasso proveniva dai ciottoli sul sentiero. Stava arrivando un cavallo, e anche se le curve impedivano di vederlo, era chiaro che si stava avvicinando. Ero in procinto di alzarmi dal muretto, ma visto che c'era poco spazio, io rimasi seduta immobile per lasciarlo passare. Allora ero giovane, e la mia mente era in preda a ogni tipo di fantasia, lieta o cupa che fosse. In mezzo a tanto ciarpame riaffioravano i ricordi delle fiabe ascoltate da bambina, alle quali la più matura giovinezza aggiungeva un vigore e una precisione di gran lunga superiori a un tempo. Mentre il cavallo veniva avanti e io attendevo di vederlo apparire nella luce del crepuscolo, mi tornarono in mente certi racconti di Bessie nei quali compariva uno spirito del nord d'Inghilterra, il Gitras, che sotto le spoglie di un cavallo, di un mulo o di un grosso cane percorreva le strade solitarie e talvolta sorprendeva un viandante che si era attardato, come me, in quella circostanza. Era vicinissimo, ma ancora non si vedeva. E poi, oltre al cloppete cloppete, sentì un fruscio sotto la siepe e in basso, dai fusti dei noccioli, sbucò un grosso cane dal pelo bianco e nero che spiccava tra gli alberi. Era esattamente una delle personificazioni del Jitrash, una creatura leonina col pelo lungo e un'enorme testa. Tuttavia mi passò davanti tranquillo senza fermarsi a fissarmi con occhi paurosi di demone come mi sarei quasi aspettata. Il cavallo seguì. Un alto destriero con in groppa il cavaliere. L'uomo, un essere umano, ruppe l'incantesimo all'istante. Nessuno aveva mai montato il Jitrash, che era sempre solo, e gli spiriti maligni, sebbene si incarnassero talvolta in animali privi di favella, di rado cercavano rifugio nelle comuni forme umane. Non era dunque il Jitrash quello, solo un viaggiatore che aveva preso una scorciatoia per Milkut. Passò e io proseguii per poi girarmi dopo pochi passi. Una scivolata, una voce che esclamava «Cosa diavolo c'è adesso?» e il rumore di un capitombolo sui ciottoli richiamarono la mia attenzione. L'uomo e il cavallo erano a terra. Erano scivolati sulla lastra di ghiaccio che ricopriva il sentiero. «Siete ferito, signore?» Forse stava imprecando, anche se non ne sono sicura, ma certo stava borbottando qualcosa che gli impedì di rispondermi subito. «Posso fare qualcosa?» domandai ancora. «Toglietevi di mezzo», rispose lui alzandosi prima in ginocchio e poi in piedi. Feci come mi era stato detto. A quel punto, mentre il cavallo cercava di sollevarsi, ci fu un gran scalciare e battere di zoccoli accompagnato da un tale abbaiare e latrare che mi convinsi a spostarmi di qualche metro, anche se ero ben decisa a vedere come sarebbe andata a finire. Alla fine, per fortuna, il cavallo riuscì a rimettersi in piedi e il cane fu zittito con un «Basta, pilot!». Poi il viaggiatore si chinò per tastarsi il piede e la gamba, come ad accertarsi che non ci fosse nulla di rotto. Ma a quanto pare sentiva dolore, perché si fermò accanto al muretto da cui mi ero alzata poco prima e si mise a sedere. Ero in vena di rendermi utile. O forse solo di intromettermi, credo, perché mi avvicinai ancora. «Se vi siete infortunato e avete bisogno d'aiuto, signore, posso andare a chiamare qualcuno a Thornfield o a Hay?» «Grazie, me la cavo da solo. Non ho ossa rotte, solo una distorsione». E si alzò nuovamente appoggiando il piede a terra. Ma l'operazione gli strappò un involontario «Ah!». C'era ancora un po' di luce residua e la luna brillava sempre più. Lo vedevo chiaramente. Era avvolto in un mantello dal collo di pelliccia, chiuso da una fibbia. I dettagli del fisico non erano evidenti, ma era senz'altro un uomo di media statura e dal torace piuttosto ampio. Aveva un colorito olivastro, tratti austeri e sopracciglia folte. Non era più giovanissimo, ma non aveva ancora raggiunto la mezza età. Doveva essere sui 35 anni. Non mi ispirava timore e mi intimidiva appena un poco. Se fosse stato un giovane prestante dall'aria eroica, non avrei osato rimanere lì a fargli tutte quelle domande e a offrirgli aiuti non richiesti. In realtà, io, un giovane prestante, non l'avevo forse mai visto in vita mia e tantomeno gli avevo parlato. In teoria, avevo un grande rispetto e una sorta di adorazione per la bellezza, l'eleganza, la cavalleria e il fascino. Ma se avessi incontrato queste qualità incarnate in una forma maschile, avrei capito istintivamente che non corrispondevano a nulla in me e le avrei fuggite come si fugge il fuoco, il fulmine o tutto ciò che splende ma ci risulta ostile. Se solo lo sconosciuto avesse sorriso e si fosse mostrato bonario quando mi ero rivolta a lui, se avesse respinto allegramente la mia offerta d'aiuto ringraziandomi, me ne sarei andata per la mia strada senza bisogno di fare altre domande. ma l'espressione accigliata e i modi ruvidi dell'uomo mi misero a mio agio e dunque, quando mi fece cenno di muovermi, rimasi dov'ero e annunciai: «Non ci penso nemmeno a lasciarvi, signore, non a quest'ora e su questo viottolo deserto finché non vi avrò visto rimontare a cavallo». Nell'udire queste parole lui mi guardò. Fino a quel momento aveva malapena volto gli occhi nella mia direzione. «A dire il vero siete voi che dovreste andare a casa», disse, «se ne avete una da queste parti. Dove abitate?» «Poco distante da qui, laggiù, e non ho nessuna paura di star fuori a quest'ora quando c'è la luna. Se volete posso fare una corsa fino a Hay per voi, anzi sarà un piacere. In effetti devo andarci comunque a spedire una lettera». «Abitate laggiù. Volete dire in quella casa con le merlature?» disse indicando Thornfield, immersa in quel momento nel lucore bianco della luna. «Sì, signore». «E di chi è quella casa?» «Del signor Rochester. E voi lo conoscete?» «No, non l'ho mai visto. Non abita lì?» «No». «E sapete dirmi dov'è?» «Non lo so». «Non siete una domestica, naturalmente. Siete...» E qui si interruppe. Lasciò correre lo sguardo sul mio abito, che come sempre era molto semplice, una mantella nera di lana merigna e un cappello di castoro nero anch'esso, nell'una nell'altro abbastanza eleganti per una cameriera personale. Visto che non riusciva a capire chi potessi essere, gli venne in soccorso. «Sono l'istitutrice!» «Ah, l'istitutrice! Diavolo, l'avevo dimenticato, l'istitutrice!» E per la seconda volta il mio abbigliamento fu messo sotto scrutinio. In capo a 2 minuti si alzò, ma quando cercò di muoversi non riuscì a trattenere una smorfia di dolore. «Non posso mandarvi a chiedere aiuto», disse, «ma potreste essere più gentile da aiutarmi voi». «Certo, signore». «Non avete un ombrello che possa usare come bastone?» «No». «Cercate di prendere il mio cavallo per le briglie e portatemelo. Non avete paura, vero?» Avrei avuto paura di toccare un cavallo se fossi stata sola, ma poiché mi dicevano di farlo, ero disposta a obbedire. Posai il manicotto sul muretto e mi avvicinai al grosso cavallo. Cercai di afferrare le briglie, ma era una creatura focosa e non mi lasciava avvicinare alla testa. Feci un tentativo dopo l'altro, ma fu tutto vano. Oltretutto ero tremendamente impaurita da come calpestava il terreno con le zampe posteriori. Il viaggiatore rimase in attesa osservando la scena e alla fine scoppiò a ridere. «Ho capito», disse, «se la montagna non va a Maometto, dovrete aiutare Maometto ad andare alla montagna. Devo pregarvi di tornare qui». Andai da lui. «Scusatemi», continuò, «la necessità mi obbliga a servirmi di voi». Mi posò una mano pesante sulla spalla e, appoggiandosi a me con un certo sforzo, si avvicinò, zoppicando al cavallo. Dopo aver afferrato le briglie, riuscì facilmente a domarlo e balzò in sella con una smorfia terribile perché lo sforzo aveva acuito il dolore della slogatura. «E adesso», disse lasciando andare il labbro inferiore che si era morsicato per non urlare, «datemi il frustino, è là, sotto la siepe». Lo cercai e lo trovai. «Grazie, e ora fate presto con quella lettera, Hay, e tornate il prima possibile». Un tocco di sperone fece dapprima impennare e indietreggiare il cavallo e poi lo lanciò al galoppo. Il cane gli corse dietro e sparirono tutti e tre. Come Erica nel deserto che il vento selvaggio travolge. Non avevo voglia di rientrare a Thornfield. Varcare quella soglia significava tornare all'inerzia, significava spegnere del tutto il vago entusiasmo risvegliato dalla mia passeggiata, chiudere nuovamente i miei talenti nei ceppi invisibili di un'esistenza monotona e immobile, della quale non riuscivo più ad apprezzare la sicurezza e l'agio. Come mi avrebbe fatto bene in quel momento essere gettata nel turbine di una vita incerta e tempestosa e imparare attraverso dure e amare esperienze a desiderare la calma di cui adesso mi dolevo tanto. Al cancello mi attardai e anche sul prato camminai avanti e indietro davanti alla porta. I vetri delle imposte erano chiusi e non riuscivo a vedere all'interno, e il mio sguardo e anche il mio spirito rifuggivano da quella cupezza per volgersi al cielo dispiegato davanti a me, un mare azzurro, intatto e senza nubi. La luna saliva lenta e solenne, e poi c'erano quelle stelle che seguivano tremolanti il suo corso, di fronte alle quali anche il mio cuore tremava e le mie vene si infiammavano. Sono le piccole cose a richiamarci su questa terra. Passò il rintocco delle ore nell'atrio e io mi distolsi dalla luna e dalle stelle. Aprii una porta laterale ed entrai. Nessuno aveva ancora acceso l'alto lampadario nell'atrio e tuttavia la stanza era immersa in un bagliore caldo che si estendeva fino ai primi gradini della scala di rovere. Quel riverbero rossastro proveniva dalla grande sala da pranzo. La porta a due battenti aperti rivelava un bel fuoco acceso che si rifletteva sul marmo del caminetto e l'ottone degli attizzatoi, mettendo piacevolmente in risalto i tendaggi color porpora e la mobilia lucida. Mi ero appena accorta del gruppo di persone raccolte presso il focolare, da cui si levava un'allegra confusione di voci, mi parve di distinguere quella di Adele, quando la porta si chiuse. Mi affrettai a raggiungere la stanza della signora Fairfax. Anche lì il focolare era acceso, ma non ardeva nemmeno una candela, e anche la buona signora era altrove. Al suo posto, seduto tutto solo e impettito sul tappeto e con gli occhi fissi sulla fiamma, vidi un grosso cane, bianco e nero, col pelo lungo, uguale al Gitrash incontrato sul viottolo, talmente uguale che fece un passo avanti e disse «Pilot!». E l'animale si alzò e mi venne incontro per annusarmi. Lo accarezzai e lui agitò la lunga coda. Ma c'era un che di innaturale nel rimanere sola con lui. E poi non capivo da dove fosse venuto. Suonai la campanella per chiedere una candela e volevo anche sapere qualcosa del nuovo ospite. Entrò lì. Da dove arriva questo cane? L'ha portato il padrone. Chi? Il padrone, il signor Rochester. È arrivato da poco. Ah, sul serio? E la signora Fairfax? È con lui? Sì, e anche la signorina Adele. Sono nella sala da pranzo e John è andato a chiamare un dottore perché il padrone ha avuto un incidente, il cavallo è caduto e lui si è fatto male a una caviglia. Il cavallo è caduto sul sentiero che porta Hay. Sì, galoppava in discesa ed è scivolato sul ghiaccio. Portatemi una candela, per favore, lì. Lì tornò con la candela. Entrò seguita dalla signora Fairfax, che mi ripeté le notizie aggiungendo che era arrivato anche il dottor Carter e che stava visitando il signor Rochester. Poi si affrettò a uscire per ordinare che servissero il tè. E io salì al piano di sopra a togliermi mantella e cappello.